Monte Citorio e dintorni. Di Elisabetta Fiorito. Buon pomeriggio e noi questo pomeriggio andiamo al Senato della Repubblica, dove incontriamo ovviamente telefonicamente il senatore questore Antonio De Poli, eletto nelle file dell'UDC. Buon pomeriggio, senatore. Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori. Allora, cosa fa un questore? Controlla i conti e in tempi... Beh, non solo. Che controlla un po', però soprattutto, no, i conti del Senato, certo. E poi anche però controlla i senatori che si comportino bene, insomma è un po' il poliziotto dei senatori. Voi avete redatto un rapporto un po' ottimista dicendo che finalmente il Senato risparmia addirittura 100 milioni di euro nel triennio 2013-2016. Come ci siete riusciti? Ma intanto ci siamo riusciti mettendo delle attenzioni all'interno delle spese del Senato stesso, riducendo la dotazione di 21 milioni di euro e avendo un risparmio sulle spese dei senatori, sulle spese correnti, sullo stesso personale di ulteriori 12 milioni e 6 di euro. Questo significa 34 milioni di euro di risparmio nel 2013 che riportati fino al 2016, quindi nel triennio successivo, fanno circa 100 milioni di euro. E questo è un primo dato, ma abbiamo intenzione che col bilancio del 2014 di intervenire in modo ancora più preciso, essendo questo un anno di passaggio dalla vecchia alla nuova legislatura, e quindi il vero bilancio che noi lo andremo a fare nel 2014 per poter dare un'ulteriore impronta a quello che è la prospettiva di un bilancio trasparente e attento a quello che possono essere i costi in un momento veramente di grande difficoltà della nazione e quindi di tutti i nostri cittadini. Ecco, questo bilancio del Senato è stato approvato da chi? Il Movimento 5 Stelle, che è all'opposizione, quindi fa il controllore, e poi comunque è un po' il controllore, no? È stato eletto. Diciamo che, che cosa ha fatto? Il Senato non è neanche stato, diciamo che il bilancio è stato approvato da tutta la maggioranza, più Lega, più SEL che sono all'opposizione, e il 5 Stelle sul voto finale si è astenuto, quindi vorrei dire che il risultato è stato un risultato veramente ottimo, che al di là delle diversità e dell'opposizione, che quindi fa la sua critica giusta, voglio dire, anche se a volte esasperata da parte di 5 Stelle, ma giusta rispetto al proprio compito, credo che siamo soddisfatti perché il bilancio è stato approvato praticamente all'unanimità, se consideriamo l'astensione come un voto non favorevole, ma nemmeno contrario all'impostazione del bilancio, sia consuntivo 2012 che preventivo 2013. Quindi, anche se per un bizantinismo parlamentare l'astensione al Senato vale un voto contro, no? Poi sì, c'è questa cosa. Questo è vero nel momento in cui si vota e si conteggia il voto di per sé, però politicamente vorrei dire è un segnale diverso che vedere la lucetta rossa, che significa contrario, e l'astensione, che significa non condivisione ma nemmeno contrarietà rispetto al percorso fatto. L'UDC è andato alle elezioni insieme con Scelta Civica, attualmente però è successo un patatrac. Il senatore Mario Monti in che gruppo siede in questo momento? Ma il senatore Mario Monti, fino a prova contraria, siede nel gruppo di Scelta Civica, quindi all'interno dei parlamentari dei 20 senatori di Scelta Civica, di cui siede anche il sottoscritto. Chiaramente in queste ultime settimane ci sono due realtà, un gruppo di 12 senatori, quindi la maggioranza dei senatori, che vede in una prospettiva futura anche l'ampliamento dell'attuale Scelta Civica, andare oltre Scelta Civica, l'UDC eccetera, per andare nella grande famiglia dei popolari europei, quindi trovare un percorso attento ai bisogni del territorio e attento ai bisogni e alle richieste che ci viene dalla gente, dalle persone, dalla famiglia, da chi è senza lavoro, dalle nostre aziende che stanno chiudendo, e quindi di dare una prospettiva nuova a quest'area centrale moderata che oggi si presenta all'elettorato e deve presentarsi modo totalmente aperto e facendo dei riferimenti valoriali importanti come quelli del Partito Popolare. Non è che state facendo la corte agli scissionisti del PDL, si parla già di una nuova forza politica che si potrebbe chiamare Italia Popolare, quindi insomma per riunire tutti quanti i moderati e un po' far sì che la nuova Forza Italia sia più una formazione di destra che di centrodestra. Ma questa è una delle valutazioni che qualcuno vuole far passare. Noi vogliamo creare un'area moderata che guardi concretamente ai bisogni e guardiamo i cittadini, alle persone che vengono sia da un'area del centro-destra che da un'area del centro-sinistra. Quindi non fate la corte. Belle dopo il congresso del 9 dicembre sul centro-sinistra cosa succederà. Uno però dei casi che vi ha coinvolto è quello del ministro Anna Maria Cancellieri, che comunque faceva parte della vostra, fa parte della vostra formazione politica, no? Quella centrista. Ecco, ha visto, c'è stato un nuovo scandalo, adesso addirittura uno dei candidati alla segreteria del PD, Cooper, lo dice appunto a Letta, valuti se andare avanti con il ministro della giustizia. Voi lo continuate a difendere a spada tratta? Ma io credo che se vediamo anche cosa la lettera della Cancellieri ha fatta, che rifiuto ogni sospetto su correttezza mio operato, io credo che andremo a discuterne la settimana prossima, ci sarà un'ulteriore discussione in Parlamento di questo aspetto. Io credo che ci sia su questo aspetto specifico della Cancelliere molta strumentalizzazione. Comunque andremo a vedere nei prossimi giorni la realtà dei fatti anche con la Cancelliere stessa cosa dirà ancora. Ecco, ma non è che vi state perdendo i vostri cavalli di battaglia, Mario Monti, la Cancelliere, poi chi riproponete alle elezioni? Io credo che il cavallo di battaglia sia riuscire a dare risposte ai nostri cittadini e avere un progetto di rilancio dell'Italia e delle nostre imprese. Credo che questo sia il vero cavallo di battaglia, al di là dei nomi che sono tutti importanti, ma che chiaramente oggi i problemi veri sono altri. Quindi lei dice noi alla fine quello che ci importa è che l'economia riparta, vabbè, ma questo lo dicono tutti i politici, invece a noi ci è sembrato, però forse ci siamo sbagliati, che abbiate un po' corteggiato, insomma stiate corteggiando sia la centrodestra che centrosinistra, no? Ma noi corteggiamo il fatto che si possa rimettere insieme un'area di moderati che dia concretezza all'Italia, che andiamo fuori da questo bipolarismo muscolare che non ci ha portato da nessuna parte. La contrapposizione da una parte Berlusconi, dall'altra parte il centro-sinistra, meglio Bersani, meglio Pinco, Palla o Pallina, e non ha portato l'Italia da nessuna parte, si è fatta governare dai due estremismi delle due parti e alla fine ci troviamo ad oggi ancora una volta che siamo qui che corriamo dietro a ogni giorno all'immusilimo, no, la cancelliere sì, la cancelliere no. Io credo che i problemi siano altri e serve una grande forza popolare che dia risposta concreta ai bisogni, al di là di tutte le grandi discussioni che i partiti della politica in questi ultimi tempi stanno facendo. Ma tipo Roberto Formigoni nel vostro partito lo accogliereste? Ma Roberto Formigoni è un personaggio che sicuramente un'area popolare potrebbe anche starci, ma questa sarà una sua scelta, non sarà sicuramente nostra. E Angelino Alfano? Altrettanto, ma anche perché no, uno che viene da un'area del centro-sinistra all'interno del PD, dell'area moderata storica, del Fioroni o altri, dico dei nomi che possono chiaramente rappresentare delle aree di pensiero e di progetto che possono condividere chiaramente nell'area popolare quello che potrà essere il futuro. Allora ringraziamo il senatore questore Antonio De Poli dell'UDC, io vi do appuntamento a sabato prossimo, a risentirci senatore. Grazie a voi, arrivederci.